Ai suoi giocatori che cosa ha detto? Ti ho detto poco, ho detto perché ero molto, molto arrabbiato, molto deluso, loro lo stesso, quindi penso sia meglio in questi momenti stare in silenzio, ne parleremo o più tardi o domattina. Dobbiamo convocare la banda. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ferma un attimo! Ferma! Cantatemi un giorno all'improvviso, andiamo! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, il tempo che passa. Segna Milik e come nel 2012 trionfa il Napoli che vince la sesta Coppa Italia. Difendo la città, ale ale ale. Ho tante responsabilità addosso perché mi sento a volte proprietario del club, a volte magazziniere, a volte il dottore, a volte... Ed è difficile per come vivo io il calcio, però lo so fare solo così ed è per questo che me la sento addosso, me la sento dentro questa vittoria, perché so da dove siamo partiti e lo stress che ho creato ai miei giocatori e alle persone che lavorano all'interno di questo club qua, ce la siamo meritata. Ciao ragazzi, forza Napoli! Sinceramente li ho visti come noi, poi se si parla di meriti ai calci di rigore, oggettivamente li hanno calciati molto meglio di noi. Eccoci qui ragazzi, siamo atterrati nel giorno dopo la finale di Coppa Italia, per Luigi Pardo, ciao. Ciao. Io ringrazio e saluto anche Claudia Schiattone, che è autrice di questa puntata, Alessandro Marco Tulli di là dal vetro in regia, così come Filippo Aureggi, montaggi sono di Gianmarco Ferronato. Allora, siamo atterrati nel giorno dopo la finale di Coppa Italia, caro Pier, le tre battute più cattive che girano oggi sono: intanto che questo è il giovedì delle vedove di Allegri, e l'ha già scritto anche un amico, sms WhatsApp a 349-238-6666 chiedendosi dove sono finiti quelli dell'Allegri out, e poi che Gattuso ha dato ai napoletani quello che Sarri non è riuscito a dare in 3 anni, e cioè un trofeo, oppure, questa secondo me è la più cattiva e anche ingenerosa di tutte, finalmente Sarri è riuscito a far vincere il Napoli. Allora, io voglio sapere cosa ne pensate. 800240024, numero verde per intervenire in diretta. Dopo la borsa daremo spazio molto alle vostre telefonate. E però l'avevamo detto ieri, no Pier? Ci sarebbe stato un doppio piano di lettura del risultato di questa partita. Sì, beh, allora c'è il campo dove secondo me alla fine è venuta fuori un po' la partita che mi aspettavo, che ci aspettavamo. Insomma, una partita complessivamente equilibrata col Napoli che ha avuto più voglia, secondo me, più brillantezza della Juve, ma insomma, 3 partite fra semifinale e finale di Coppa Italia, 3 pareggi, questa è la sintesi, a dimostrazione del fatto che anche se poi il popolo dei social network vuole sempre giudizi netti, definitivi, clamorosi, le distanze fra le squadre sono minime, soprattutto in un momento come questo. Questo è il primo aspetto. Poi però il Napoli che vince ai rigori con la Juve è comunque una notizia. È una notizia perché... Anche perché lo fa meritatamente. Cioè, assolutamente. Noi parliamo di una partita chiusa ai rigori, ma che in realtà certo. Si sarebbe anche potuta chiudere prima. Sì, con il miracolo di Buffon al 92esimo, assolutamente no. Ma quindi stiamo parlando sicuramente di un'impresa che Gattuso ha confezionato nel giro di qualche mese, e di contro, insomma, credo che la pressione su Sarri è inevitabile che aumenti, perché è il secondo appuntamento stagionale, è il secondo appuntamento che svanisce, dopo la Lazio e il Napoli, la Juve non è ancora padrona del campionato. È vero che bisogna aspettare che si costruisca la rivoluzione, sì, però è anche vero che alla fine soprattutto questo secondo me dice con chiarezza una cosa, e pensa ad Allegri, che nessuno vince per diritto divino o perché è più forte. Cioè le vittorie di Allegri, che molto spesso anche alcuni tifosi bianconeri consideravano normali, assolutamente scontate, logiche, eccetera, non sono state tali, sono vittorie. Vincere una partita secca di Supercoppa italiana o di finale di Coppa Italia non è mai facile. Sì, poi c'è che ci ricorda, dico, come diceva Allegri, se un allenatore non vince mai ci sarà un motivo. Poi oggi fioccano i video di Cortomuso, di non lo dico, sennò viene giù un casino. Però adesso parliamo del Napoli. Boris Sollazzo, ciao. Buongiorno, scusate, smetto un attimo di saltare, visto dopo la vostra apertura. No, parliamo del Napoli perché poi ci sarà tempo di aprire tutto il ragionamento con Xavier Iacobelli su Maurizio Sarri. 800-24-0024, vi aspetto, chiamate, però prenotatevi per intervenire. Boris. Non siate severi con Sarri, perché insomma una finale l'aveva perso pure Allegri col Napoli, è sempre ai rigori, quindi noi siamo ecumenici e vinciamo contro tutti, no, scherzi a parte. Io credo che insomma forse la Coppa Italia Sarri dovrebbe cercarla in albergo, volendo fare una battuta juventina, nel senso che secondo me si è visto che l'allenatore migliore, perché non rinnego niente, per far giocare bene le squadre, e alla Juventus questo ancora non si è visto. Il problema è che quando si tratta di prendere qualcosa, di giocare le partite decisive, lui non ha carattere e non riesce a darlo. Cioè io adesso, al di là della grande partita del Napoli, perché secondo me ieri il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita, ha avuto un grande allenatore che non ha sbagliato una mossa prima, durante e dopo, però io non ho mai visto la Juve così molle, così incapace di reagire e di cambiare marcia. Forse era stata anche quella con il Milan, poi partita che poi in realtà è stata condizionata dall'inferiorità numerica del Milan e dal divario spaventoso che c'è in questo momento fra Juventus e Milan in campo. E poi, e lo chiedo a tutti e due, c'è la storia di Rino Gattuso. Scrive un amico: non è che il Gattuso del Milan fosse diverso da quello del Napoli, semplicemente a Napoli ha trovato giocatori migliori. E la verità è che con ieri ha strappato però la tesi di laurea. Sì, però ragazzi, il Gattuso del Milan è una follia averlo mandato via. Cioè, arriva a un punto dalla Champions League con una squadra e una società ai minimi termini. Qua fa un altro miracolo, perché il Napoli, non ce lo scordiamo, io non mi scordo niente di quello che ho detto, quindi non ce lo scordiamo che noi avevamo paura di andare in B. A dicembre il Napoli era in un piano inclinato pericolosissimo che io avevo già vissuto 20 anni prima. Infatti questa coppa è tutta di Gattuso. E ha fatto un miracolo, cioè da quando è arrivato quest'uomo ha messo sotto, anche se dietro la linea della palla, quello che volete, tutte le squadre più forti d'Italia e d'Europa. Cioè parliamo di Liverpool, Barcellona, Lazio, Inter e Juventus. E come non è un caso che Allegri vinca i trofei, non è neanche un caso se tu fai partite di questo tipo. Ed è tutta di Gattuso, perché quel gruppo che prende Calleon in lacrime e lo porta in trionfo, che ci si scorda delle multe, va in trionfo anche il presidente, l'ha creato lui. Quel gruppo era devastato dalle multe, dall'ammodinamento, da Ancelotti. Non c'è dubbio. Cioè, ha fatto un miracolo. Ieri post partita io ero in un ristorante, devo essere, ovviamente con le distanze di sicurezza, e quindi forse qualche passaggio me lo sono perso di quel discorso lì per lì. Poi ho sentito ovviamente tutte le interviste, però quell'immagine, ecco, Boris è un esperto ovviamente di cinema. Quell'immagine di ieri è stata veramente cinematografica. E devo dire che l'assenza del pubblico, che rimane una tragedia sportiva, la quale speriamo presto di dover fare a meno, spero che tornino prima possibile, però ha creato uno stato di sospensione per certi versi veramente inedito. E c'era questo, il momento del discorso alla squadra, il momento del presidente portato in trionfo, devo dire, clamoroso, sì, fair play, post partita. Chapeau Agnelli e De Laurentiis ieri, veramente vedere Agnelli consegnare cioè ieri per un attimo ho pensato che forse in questa situazione straniante, cambiando i riti del calcio, anche se li cambiamo in peggio perché io il pubblico lo voglio e lo ripeterò sempre, però è stata presa un'occasione ieri. Guarda, ieri è stato un post partita bellissimo da questo punto di vista. Però il problema, Pierre, è che capiti una seconda volta, perché quella di ieri, il primo pensiero che è venuto a tutti è stato Pechino 2012 con De Laurentiis, sì, certo, che ritira la squadra. Benissimo. Secondo me non va neanche macchiato il gesto di ieri ripensando a quello del 2012, non deve restare solo un gesto di Agnelli, questo voglio dire. Lanciamo una proposta, non dobbiamo essere noi. Gravina, da questo punto di vista, secondo me è particolarmente sensibile. Facciamo che da adesso in poi, in occasione della Supercoppa e della Coppa Italia, con un atto di moral suasion, le società dicono che i presidenti consegnano il però premio. Anche se hai perso, uno sarà più anche se ti è andata male felice, l'avevano deciso insieme prima, l'avevano deciso insieme prima poi ovviamente la partita ieri fortunatamente non ha avuto episodi arbitrali, e voi sapete da telecronista quanto questo sia una meraviglia, il fatto che non si debba parlare di VAR a fine partita, quanto non ci manca per niente il VAR a fine partita. Detto questo, è stata bella quell'immagine lì, e istituzionalizziamola. Cioè, in Spagna ci sono i presidenti che storicamente guardano la partita uno al fianco dell'altro, cosa che da noi è stata tentata raramente. Boris? Ma guarda, secondo me io ho capito che avremmo vinto i rigori, nonostante subito dopo il palo di Elmas ho pensato che inevitabilmente finiva un'occasione male. Così finiva male, però quando ho visto i due pre-rigori, cioè da una parte un gruppo che pendeva dalle labbra e dagli occhi di Gattuso, e che in cui Gattuso faceva il Gattuso, e dall'altra Sarri che fa quel gesto con il pugno che è fuori dalla sua estetica, fuori dalla sua abitudine, in cui Sarri cerca di fare lo juventino, ma non nel senso, non c'è nessuna offesa, nel senso cerca proprio di indossare uno stile che non è il suo. E lì capisco che da una parte c'è un gruppo che segue quasi messianicamente il proprio allenatore, e dall'altro c'è un gruppo per nulla convinto del gioco del suo allenatore. C'è una foto molto bella che sta girando, quella in cui De Laurentiis cerca di salutare Sarri, Sarri va per la sua strada, è vicino a proprio Andrea Agnelli, e la faccia che fa Andrea Agnelli è tutto un programma, secondo me, sulla fiducia che società e squadra hanno nell'allenatore. Beh, guarda, a febbraio qui ci disse che non era in discussione Sarri, che alla Juventus i piani li fanno su 2-3 anni, perché ci deve essere tempo per tutti di crescere. Chiaro che questa è una stagione anomala, è chiaro che molto tornerà a essere fondamentalmente deciso, io penso, nella gara di ritorno contro il Lione, e poi vediamo anche prima come va il campionato. Grazie Boris. Grazie. Ciao. A voi. Grazie a Boris Solazzo. Sì, perché c'è un tema Sarri, Pier, se vuoi lo chiamiamo anche processo, così facciamo pari con quello che abbiamo fatto lunedì all'Inter e ad Antonio Conte, semplice. E facciamo contenti anche tutti quelli che ci stanno scrivendo dicendo: avete fatto il processo a Conte, non lo fate a Sarri. Adesso lo apriamo il processo a Sarri. Assolutamente. Io credo che Sarri sia stato preso per fare una rivoluzione, che la rivoluzione abbia tempo, che la rivoluzione passi per i 3 mesi finali della stagione, però insomma cominciano a essere 2 sconfitte su 2, cioè questo è oggettivo. La Juve è abituata a vincere, anzi la Juve è abituata spesso a dominare i campionati negli ultimi anni. Io ribadisco quello che dicevo prima, perché poi quando uno pensa ad Allegri, quante volte sentivo, c'era, ma anche da parte degli stessi juventini c'erano delle critiche, e io sapete come la penso, io penso che Allegri sia un grande allenatore, un grandissimo allenatore, e ce ne accorgiamo oggi, ma non perché Sarri dovesse, perché oggi è il giovedì delle vedove di Allegri, i rigori erano sbagliati di Bale e Darío, però voglio dirti, vincere non è facile, non te lo porti mai da casa, anche se hai il fatturato più grande e la Juve ce l'ha, anche se hai la società probabilmente più strutturata, con più ricambi, però poi non è che vinci per decreto legge, per DPCM. Guarda, dobbiamo fermarci, però ti do uno spaccato di cosa sta arrivando via WhatsApp, 349-238-6666, prendiamo un allenatore da Juve, poi un altro amico che dice: Sarri è totalmente estraneo al mondo della Juventus, ancora la Juve deve mettere in discussione anche Paratici, immagino perché è autore della scelta, insomma, di cambiare da Allegri a Sarri. E poi ancora: la realtà è che i nodi stanno venendo al pettine, che Allegri ha sempre fatto più di quello che poteva. Allegri ancora disse che si dovevano cambiare 10 giocatori, perché arrivati a fine ciclo la società invece ha scelto di cambiare allenatore e ha tenuto i giocatori. Insomma, sono i tifosi della Juventus che lo hanno aperto il processo. Allora noi ci fermiamo un minuto, 800 24 00 24, ci ascolta il direttore di Tutto Sport Xavier Iacobelli, oggi in prima titolato Disastro Sarri, ripartiamo da lì. Eccole le vedove di Allegri, eccole, vengono fuori come funghi, dato che è periodo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Ma C'è delusione per i ragazzi, delusione per la società, delusione per i tifosi, però in questo momento sinceramente non possiamo esprimere molto di più, un po' per la condizione fisica, un po' per qualche assenza importante ci condiziona, però alla fine la partita l'abbiamo fatta con buoni livelli di applicazione, perché siamo rimasti sempre in campo piuttosto bene. E in questo momento direi che ci manca tanta brillantezza per rendere l'amore di gioco alla fine pericoloso. Allora, queste le parole, alcune delle parole di Sarri dopo la sconfitta ieri contro il Napoli. Xavi Iacobelli, ciao. Buon pomeriggio a voi da Tutto Sport. Allora, ciao, io riparto da quella prima pagina, disastro Sarri. È arrivato il momento di aprire il processo, era già il momento di aprire il processo, o ci limitiamo semplicemente all'analisi di come sono stati giocati questi 3 giorni di calcio post-Covid, perché poi di questo stiamo parlando? Ma intanto è evidente che qualunque allenatore, soprattutto un allenatore che guidi la Juve, sa che viene e verrà giudicato sulla base dei risultati che ha ottenuto o avrà ottenuto. È normale, credo sia logico, di fronte ad una prestazione così raffazzonata, così inconcludente, così negativa della Juventus, che ci debba essere un'assunzione di responsabilità collettiva da parte dell'allenatore e della squadra. Però in primis questa è una squadra che in 180 minuti, a parte la difficoltà a fare un tiro in porta, il primo è arrivato al 64esimo ieri sera ad opera di Bonucci, ma poi non riesce evidentemente a concretizzare questa serie di passaggi molto spesso in orizzontali che non hanno un fine, cioè quello di tirare almeno in porta. E questo è doppiamente paradossale se si pensa che questa squadra allinea un signore come Cristiano Ronaldo, un altro come Paolo Dybala, e però non ha un centravanti di fuoco. Sì, Ronaldo Maluccio, sia contro il Milan che contro il Napoli. Ha centrato il problema principale, che è il vero paradosso della Juve di questo momento, cioè che pur avendo Cristiano Ronaldo, che è con Messi il miglior giocatore, poi decidete voi le gerarchie degli ultimi 20 anni, uno da 700 gol in carriera, avendo Dybala, avendo altre soluzioni, però in questo momento non ha un attaccante sul quale puoi realmente contare, cioè non ce l'ha, e questa è la verità. Tanto è vero che insomma ci sono state voci di tanti giocatori, sì, tanti, ma mi chiedo cosa debbano dirsi gli altri, però, Pier. No, ma infatti è chiaro che Napoli ieri avevamo Mertens, chiaramente non in condizione, con qualche problema fisico, non in condizione come tutti gli altri del resto, ma i 3 mesi di lockdown ci sono stati per i giocatori della Juve, per i giocatori del Napoli, dell'Inter, del Milan, e ci saranno per quelli che scenderanno in campo nel weekend. Sì, però se devi fare una partita sull'avversario, se devi fare una partita di lotta, se devi fare una partita di carattere, allora il Napoli è più forte della Juve, e ieri si è visto, e Gattuso è più forte di Sarri se devi fare quel tipo di partita. Quindi o Sarri riesce a trovare le soluzioni per far valere la superiorità tecnica della Juve, che comunque c'è, o se no, se si va di corto muso, se si va sulla sfida, sul corpo a corpo, sulla partita secca, sul piccolo dettaglio, forse la Juve è meno preparata di altre, questa è la verità, e ieri si è visto. Sì, a me ha fatto anche un po' specie, Xavier, sentirlo ieri sera poi tornare sul concetto che la Juventus è una squadra di solisti. Per questo, guarda, tu hai evidenziato un aspetto della questione che è destinato ad essere... Non si può nascondere o comunque affermare che la Juve sia una squadra di solisti. Certo che è una squadra di solisti, ma il compito dell'allenatore è quello di, come diceva Sacchi, parafrasando il suo linguaggio, è una questione di copione. Rammentiamo, no? Che cosa accade con Van Basten, tra Van Basten e Sacchi, all'epoca in cui il primo stentava ad adattarsi al copione del secondo. Ora quindi c'è la questione anche un'altra, e cioè se il migliore in campo della Juventus ieri sera è Buffon, Gianluigi Buffon, c'è qualche problema, perché non possiamo dimenticare, certo, come se non avesse compiuto quella prodezza allo scadere, al Napoli non sarebbe stato necessario arrivare ai rigori, perché avrebbe vinto la partita, era il secondo palo, quello colpito alle Parthenopoli. E poi, riallacciandomi alla considerazione di Pierluigi Pardo, ieri Gattuso ha tatticamente firmato un capolavoro, con il 4-5-1 ha letteralmente imbrigliato quella che dovrebbe essere la sorgente del gioco della Juventus lungo le fasce. Certo, aggiungiamo anche una imperfetta condizione fisica di molti degli atleti in campo, ma come ricordavi tu, la clausura forzata c'è stata per tutti, quindi questo è un alibi che non può reggere. La verità è un'altra, è che l'indispensabilità di Higuain è stata confermata ieri, perché se tu non hai una punta di ruolo, Mandzukic non c'è più, non hai alternative al gioco offensivo, e se devi sacrificare Cristiano Ronaldo nel ruolo di centravanti, come era accaduto in occasione della semifinale, cosa che tra l'altro lui non vuole fare, non farà, e non vuole perché non è il suo ruolo, è vero. Beh, che certo, il rendimento migliore lo offre nella posizione a lui più congeniale. Questo è il problema da risolvere, e dietro l'angolo ci sta il Bologna, e poi comincerà la rumba con le partite ravvicinate ogni 3-4 giorni. Ah, avete letto la sorella di Cristiano Ronaldo? Non puoi fare miracoli, sì. Non capisco come si possa giocare così. Ora, io tendenzialmente archivio alla voce bagatelle queste robe di parenti sui social, però va registrata, perché la sorella di Cristiano Ronaldo certamente ha accesso ad alcuni pensieri di Cristiano Ronaldo, sì, molto chiaro, più di me e te. Chiaro, è assolutamente chiaro, sì. Intanto è assolutamente legittimo, oserei dire naturale, che i tifosi della Juventus in queste ore vivano un profondo stato di delusione. Però c'è anche il fatto che anche, peraltro non la sorella particolarmente più attiva sui social, perché è l'altra consanguinea, che risulta essere molto più sì, scatenata. Questa è quella più moderata. Il fatto che venga anche da questa signora un appunto alla gestione tecnica della squadra, proprio perché, come dicevi tu, ha certamente accesso ai sentimenti e ha un dialogo costante con il fratello, è chiaro che anche è un indice del malessere generale. Ora, si tratta di verificare se, come è accaduto in passato, dopo una bruciante sconfitta, la Juventus abbia la forza, l'orgoglio per rialzarsi. Però, ripeto, l'incognita, riallacciandomi alle considerazioni di Maurizio Sarri, che parlava di una scarsa brillantezza dovuta appunto a tutto quanto è accaduto, alla preparazione. L'incognita è questa, la domanda è questa: reagirà la Juventus e soprattutto reggerà il ritmo delle partite ravvicinate che l'attendono? E l'altra domanda è se, ed è quella da cui siamo partiti, dobbiamo pensare a Maurizio Sarri sotto esame nei prossimi 2 mesi. Beh, al di là dell'ufficialità. Sì, no, ma questo, come direbbero gli amici francesi, sarà Sandiera. No, ma significa, essendo a giugno, significa comunque un club che ragiona già su un'eventuale alternativa, perché non puoi certo trovarti a metà agosto poi a trovarlo. Sai, data l'eccezionalità di questa stagione, la tempistica ovviamente deve modularsi anche sul fatto che adesso la Juventus sia attesa da 12 partite di campionato, e poi non dimentichiamo l'appuntamento molto importante con il Lione il 7 agosto. E tutto quanto ne sì, che sarà la chiave di tanto, non dico di tutto, ma di tanto. Di tanto sì, di tanto assolutamente sì, perché 2 obiettivi stagionali su 4 sono stati falliti. Rimangono i più importanti, cioè il campionato è soprattutto... Sì, cioè, si può perdonare una Coppa Italia e una Supercoppa alla fine, non si può perdonare, credo, uscire in un ottavo di Champions contro Lione. Tu ricorderai... No, credo che supererebbe anche i pensieri di Agnelli di febbraio. Secondo me, tanto per essere un po' pratici, per salvare la stagione, perché di questo parliamo... E questa è la bella ossessione della Juve, è il bel problema che ha Sarri, cioè di andare a prendere una squadra che vince il campionato da 8 anni, debba vincere il campionato e debba sicuramente arrivare nella Final 8 e fare una buona figura, quantomeno una buona figura a Lisbona. Questo è quello che secondo me è il minimo sindacale che viene richiesto in questo momento a Sarri. Non so se il direttore è d'accordo. Xavier? Le parole che pronunciò Andrea Agnelli quando si congedò da Massimiliano Allegri in quella conferenza stampa al termine che suggellò il quinquennio allegriano scandito da 11 trofei, e disse Andrea Agnelli, investendo di piena responsabilità pratici e Nedved, del mercato, dice: chi si occupa e dirige le operazioni di mercato ovviamente alla fine verrà sulla base i risultati che avrà ottenuto. Sono parole che credo rimbombino in queste ore nella gente di 29. Sì, assolutamente, grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao, grazie a Xavier Iacobelli. A proposito di direttori, carissimo Pier, adesso è ufficiale, dopo 10 anni Andrea Monti lascia la direzione della Gazzetta dello Sport. Da lunedì 22 giugno il direttore della Gazza, così la chiamiamo amorevolmente un po' tutti, sarà Stefano Barigelli, attuale condirettore da 2 anni. Noi ci fermiamo, c'è la borsa, torniamo, spazio agli ascoltatori, 800 24 00 24. Tremate, tremate, le zebre sono sdraiate. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta convocati. Signori, Allegri veniva molto criticato da Ciuchina, vi ricordate? Sì, lasciate lavorare Sarri, giustamente dice bene Agnelli, 3 anni, in 3 anni poi vediamo. Guardiamo la panchina della Juve ieri sera e quella del Napoli e poi smettiamola di dire che la Juve ha il miglior organico della Serie A. Noi avevamo Bernardeschi, era bio. Basta con Sarri, pietà, non c'entra niente con la Juventus. Via, basta, pietà, pietà, pietà. Dibattito aperto, 800 24 00 24, Omar Milano. Omar. Ah no, è caduto Angelo da Fermo. Allora, salve, buonasera. Io ho chiamato esattamente 364 giorni fa, a questa stessa ora, a questo stesso numero, a questa stessa quindi trasmissione. Era il 19 giugno del 2019. Perfettamente, ah, per e da questo stesso per ringraziare mister Sarri per, da napoletano, per tutto quello che aveva fatto a Napoli e soprattutto per ringraziarlo per quello che avrebbe fatto poi quest'anno alla Juve, perché chiaramente quello che ha fatto Sarri è incredibile, non è ancora finito e questo è il bello, quindi ringraziamo tantissimo. Sì, c'è un filo di ironia, No, assolutamente sono sincero, sì. E sto aspettando insomma la fine del campionato per poterlo cos'è che deve fare ancora Sarri? Lo scudetto alla Lazio mi sembra il minimo quello, certo. Pier? Al di là dell'ironia che ci sta, assolutamente è chiaro che qualcosa nel feeling con fra tifosi e allenatore, fra ambiente mi verrebbe da dire allenatore, ho la sensazione che non stia quadrando al 100%, e stanno anche cominciando a venire al pezzi in alcune cose che nella prima parte della stagione invece avevano funzionato, ad esempio il mercato. Sappiamo che il mercato l'estate scorsa non è stato semplice, abbiamo sottolineato la crescita di Dybala, che rimane secondo me oggettiva, anche quella di Higuain. Adesso insomma siamo arrivati a un punto della stagione dove forse su Higuain il giudizio non è più come qualche mese fa, no, del fatto che in questo momento è indisponibile, quindi perché non è che ieri sera potesse non lo so della tribuna. Se si misura contando i gol il giudizio non è pienamente capisci, quando poi giustamente il direttore di tutto sport dice che la Juve in questo momento ha il paradosso di non avere attaccanti, insomma è vero, e allora certe difficoltà dell'estate con Dybala che stava per essere ceduto, con l'idea di addirittura Lukaku, con insomma tutto si rivede con una luce diversa. Detto questo, Sarri è ancora, secondo me, padrone del proprio destino. Questo è il bicchiere mezzo pieno. Sì, e non è neanche il nuovo Maifredi, come l'apostrofa un amico tifoso juventino adesso. Non è il nuovo Maifredi, è un allenatore che ha fatto cose meravigliose, ha fatto cose buone ad Empoli, cose meravigliose al Napoli, ha vinto comunque al Chelsea, anche se sicuramente la sensazione è che non abbia trovato un feeling totale. E adesso la Juve la sensazione è che non stia trovando un feeling totale. Probabilmente appartiene a quella categoria, come diceva ieri Maurizio De Giovanni, più di allenatori di campo che di gestori di campioni. E la Juve in questo momento è formata da tanti campioni. Avrebbe probabilmente bisogno di un gestore. Sì, però ragazzi, questo lo sappiamo dall'estate scorsa, da quando si è saputo di Sarri. Vai che ne abbiamo altri, Pier. Si sapeva che era un rischio. Calcolato. Poi bisogna vedere. Lorenzo, provincia di Savona. Lorenzo. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. E, io sono uno di quei juventini che non rimpiange Allegri, tutt'altro sono contento dell'arrivo di Sarri. Ciò che mi ha deluso, secondo me, è stato non da parte appunto dell'allenatore, ma da parte della dirigenza. Penso nella persona di Paratici, colui che ha curato di più il mercato, nella confusione che è stata fatta quest'estate, che ha portato un centrocampo con un unico giocatore adatto al gioco di Sarri, che è Bentancur. Infatti sta uscendo fuori il suo talento adesso con lui. Gli altri centrocampisti non sono, diciamo, adatti al suo tipo di gioco, e la confusione nella fase offensiva, come diceva giustamente adesso Pier, è evidente, perché non si capisce perché volessero vendere Dybala quando in realtà poi Sarri l'ha sempre messo al centro del suo progetto, o addirittura Higuain. Il motivo era chiarissimo, è che servivano cessioni, perché non si può sempre solo acquistare, e poi alla fine, lo disse già ad agosto Sarri, voi immaginate che si possano fare tante cose in arrivo, in realtà qui siamo già troppi e sarà imbarazzante poi, e sono rimasti tanti, e alcune scelte poi anche ad esempio di lista Champions sono state oggettivamente imbarazzanti. Letizia, Monza. Sì, buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. Io sono una tifosa juventina, ho sentito quello che avete detto, non sono d'accordo, almeno per questa partita, perché sul fatto mi aspettavo che la Juve perdeva, mi aspettavo anche che Di Mara sbagliava il rigore, perché parlare del Napoli, che sono stati in ritiro come la Juve, non è la stessa cosa. Perché Di Mara è stato malato per 2 o 3 mesi, per un paio di mesi col coronavirus. Avendo visto delle persone che sono malate di coronavirus, tutta la preoccupazione, tutta l'agitazione, io mi aspettavo che non giocava neanche. Come mi aspettavo, però, ad esempio, Di Bara con il Milan all'inizio è stato il migliore. Libera Torino è diverso. Se l'avevi sotto Napoli in questo periodo è diverso. Sì, questo non c'è questa dubbio. Questa è una chiave che può essere interessante, anche se ovviamente se Di Bara gioca, e poi non è che adesso possiamo ridurre la partita di Di Bara al calcio di rigore sbagliato, se sta giocando in questo periodo è perché è ovviamente clinicamente guarito e già si sta allenando da tempo, altrimenti non ci sarebbe, non scherziamo. No, sicuramente sull'impatto io non ho certezze. L'impatto che questa pandemia abbia avuto sul paese e sulle diverse aree del paese, possiamo fare tutte le teorie che vogliamo. Detto questo, io vorrei un attimo ricordarvi, perché poi io ho questo brutto difetto che mi ricordo delle prestazioni. Abbiamo vissuto 3 partite fra semifinali e finali di Coppa Italia, sono stati 3 pareggi. Questo ci dà l'idea di quanto siano vicine le distanze. Ripeto, quando si va però di corto muso, poi conta la grinta, conta la voglia. Ieri il Napoli ha messo in campo l'ispirazione di Gattuso, aggiungo quella di Mertens. Il rinnovo di Mertens è un atto certamente agiato, certamente ricco, un uomo fortunato, però aveva 1000 altre soluzioni, è un atto di identità nei confronti di una città che ha amato e che ama tantissimo. E questa ispirazione nel Napoli ieri si è vista, si è visto un gruppo, si è vista una squadra, poi la differenza la fanno piccoli dettagli, la fa un calcio di rigore sbagliato o realizzato, però il fatto che il Napoli possa giocare alla pari e anzi un po' di più della pari con la Juve, scusate, ma è certificato. I budget sono diversi anche da quello che era successo in campionato. Sì, credo siano 24 punti, ma appunto. Ieri giustamente scriveva Sconcerti, attenzione perché potrebbe essere una lente che falsa la visuale. Oggi non ci sono. Antonio Verbagna, poi abbiamo il traffico. Antonio. Buongiorno, allora concordo con quello che ha detto Marco, in più vorrei aggiungere il nome e cognome di chi ha licenziato Gattuso al Milan. Perché poi quella gente lì prende ancora tanti soldi. Ma in realtà Gattuso racconta di essere stato lui a non essersi sentito in sintonia con il modello di Milan che veniva proposto e quindi di aver salutato, perché poi Gattuso è fatto così ed è il suo punto di forza. Ha saputo aspettare qualche mese, si è tuffato in un'avventura che in tanti gli sconsigliavano, diciamolo, Pier, perché il Napoli di ottobre-novembre era un casino, per dirlo in francese. E lui ci ha costruito il piccolo miracolo che io l'ho definito all'inizio è la sua tesi di laurea. Da qui in poi di Rino Gattuso si deve, come allenatore si deve parlare in maniera diversa. Il consiglio è senza snaturare se stesso e la sua sincerità e la sua umanità che è qualcosa di straordinario, però insomma non ti dico di tirarsela un filo di più, glielo dico anche in privato, ma insomma lui sta diventando un grande allenatore, quindi è sempre il primo nel prendersi le colpe, è sempre il primo nel fare l'umile, perché morale va bene, un po' va benissimo. Mostrare un po' di più insomma, il physique du rôle del grande allenatore. Forza, forza. Ciao Pier, a domani. Ciao. A domani. Noi invece ci tuffiamo nel tennis, perché da ieri è ufficiale il calendario, o almeno la prima parte del calendario dell'ATP per questo disgraziato 2020, e allora facciamo un po' il punto insieme a Vincenzo Martucci. Traffico, torniamo subito. Io a Mandzukic, Sarri non l'ha voluto, Sarri deve andare a casa. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Perché lo store GBM? Perché così siamo operativi 24 ore su 24, momenti di crisi compresi. Per il supporto dei partner, i servizi, il prezzo, imbattibile. E perché fino al 30 giugno c'è l'offerta di locazione, con primo canone dopo 3 mesi. Hai un'infinità di motivi per scegliere IBM Flash System. Scopri di più su ibm.com/it/PMI. Messaggio pubblicitario, offerte di locazione di 3 più 33 mesi soggette ad approvazione di IBM Italia Servizi Finanziari. Fogli informativi dai rivenditori. Convocati. È Eccoci al tennis, saluto Vincenzo Martucci, ciao Vincenzo. Buongiorno a voi. In libreria dal 2 luglio con il rinascimento del tennis italiano scritto a quattro mani e una racchetta con Paolo Bertolucci, la storia del tennis italiano dalle imprese del 76 alle 4 Fed Cup, tutto quello che è ruotato intorno al tennis azzurro in questi quasi 50 anni. Vincenzo, da ieri invece abbiamo il rinascimento del tennis mondiale anno 2020, con questo calendario compresso fatto di 7 tornei in 4 mesi e poi il resto si vedrà. Sì, è tutto compresso, cioè prima la carestia e poi la grande orgia di tennis. Non so quanti sopravviveranno, soprattutto non so quanti parteciperanno veramente. Quanti giocheranno, sì. È un po' troppo. Io credo che si arriverà, come peraltro era in passato, a una divisione abbastanza netta fra europei e americani e fra ricchi e poveri, perché obiettivamente io non credo che alla fine Djokovic, che pure a US Open non vorrebbe andarsi, poi magari spiegheremo perché, possa mollare, possa abbandonare un torneo dello Slam ai secondi, agli Tsitsipas, ai Medvedev, agli Zverev, per rischiare quindi che non solo prendano dei punti, dei soldi preziosi, ma anche prendano coraggio a questi secondi giovani. E quindi, non so, Nadal magari sarà più deciso in queste sue scelte. Un Djokovic, vedremo quello che farà, perché invece sappiamo che Federer è fuori gioco. È fuori gioco, certo, sì, perché l'altro dato è sono queste star che fanno un po' i capricci, forse hanno anche ragione loro, però... Sono abituati in modo diverso, cioè questa gente qui si muove ormai con 20 persone al seguito, cioè hanno... della pista, il preparatore atletico, lo stratega, il massaggiatore, l'amico, l'allenatore, e in più amici e altre persone sempre dell'entourage, gente che viaggia con tanta gente dietro. Adesso con i nuovi regolamenti, con il nuovo regolamento, almeno al US Open, in teoria solo i ricchi potranno avere 3 persone al seguito, gli altri una sola, e quindi sai, diventa un pochino, non sono abituati, cambiano le situazioni, vedremo. Cosa succederà? Sì, vedremo, sarà un tennis in questi mesi forse anche un po' diverso. Noi ci stiamo abituando adesso a ricalcolare com'è il calcio. Abbiamo visto gerarchie un po' che saltano, ritmi che cambiano. Ecco, sarà questo, secondo me, la cosa che sarà ingiusta, nel senso che ancora più ingiusta che in passato. Io già ho sempre contestato anche il fatto che il fatto del tetto, no? Cioè il campo centrale, il campo principale, in Australia addirittura 3 campi tutti coperti dal tetto e gli altri e i poveri sotto il sole. Gli altri sotto il sole. Adesso succederà US Open a Roland Garros, ci sarà questa differenza anche di pubblico non pubblico, come a Roma ci dovrebbe essere il pubblico, quanto poi si deciderà Roma, che diciamo lo si disputerà regolarmente dal 20 al 27 settembre, sì, dopo gli US Open, dopo Madrid e prima del Roland Garros. Così come ingiusta è stata sicuramente la decisione di Tibicelli, il presidente della federazione francese, di decidere dall'oggi al domani noi il nostro torneo lo giocheremo comunque fra 4 mesi, e ha avuto ragione lui, perché alla fine dal 23 di maggio che doveva essere si giocherà invece 4 mesi dopo, appunto il 27 settembre. E io credo che alla fine il business sia talmente grande che non si possa recedere, cioè questi sono tornei che... Pensate solo a quello che ha speso la federazione francese per coprire il centrale, ora quei 100 milioni di euro che sono, non puoi ammortizzarli così all'improvviso. Lo può fare Wimbledon parzialmente perché c'è un'assicurazione da 100 milioni di dollari e quindi loro possono permettersi di per un anno di non disputare il torneo, ma Roland Garros, US Open, come fanno? Lo stesso sì, Roma. Sono tutti obbligati. E anche a cercare di farlo, Vincenzo, con il pubblico, perché dirlo adesso significa semplicemente fare un'ipotesi, però portarsi avanti immaginando a che cosa può succedere a metà settembre, l'augurio di tutti è che nel tennis, ma non solo nel tennis, si possa tornare ad avere la presenza di un po' di pubblico. Ce lo auguriamo, anche perché è veramente inquietante, obiettivamente è un altro mondo. Lo sport non è soltanto il gesto atletico, questi superman che fanno delle cose che noi non siamo riusciti, non possiamo fare noi esseri umani normali, almeno io, non è soltanto, è spettacolo. Senza pubblico veramente è inquietante vedere le partite di calcio così senza spettatori. Capisco che sia purtroppo bisognerà sperare che si trovi una soluzione. È anche triste se c'è uno spettatore ogni 10 metri, è ugualmente triste se ci pensiamo. Però è importante anche che il tennis italiano dica la sua, cioè anche ricominciare l'attività femminile il 3 agosto a Palermo, in Italia, ha un suo significato, anche avere il suo torneo di Roma ha il suo significato, rivedere questi nostri giocatori che tanto ci hanno fatto sperare l'anno scorso. Non dimentichiamo che questi giocatori italiani erano tantissimi anni, era forse dall'epoca di Panatta, sicuramente dall'epoca di Panatta, al 76, che non vedevamo tanti italiani protagonisti tutti insieme ad alto livello. L'anno scorso ci hanno Ferrettini, Fognini, Sinner, Sonego, tutti questi giocatori potremo vederli di nuovo all'opera e sperare che si mettano in luce così come hanno fatto l'anno scorso nei grandi tornei, battendo i più forti e anche noi ritrovare un po' di dignità a tantissimi livelli. Sì, c'è bisogno di riannodare il filo con la normalità. Grazie Vincenzo. Arrivederci. Ciao, grazie Vincenzo Martucci. Allora, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio ancora Claudia Schiattone, Alessandro Marco Tulli, Filippo Auregi, Gianmarco Ferronato. L'appuntamento con tutti i convocati è domani, tradizionalmente dopo il GR delle 14. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.